Il terzo anello ad alta voce. La certosa di Parma di Stendhal. Appena tornata a casa dopo la serata dal conte Zurla, la duchessa mandò via con un gesto le cameriere. Poi, senza spogliarsi, si lasciò cadere sul letto. «Ce l'hanno in mano loro, Fabrizio!» gridò. «Lo avveleneranno, è tutto per colpa mia!» A questo riassunto della situazione seguì un vero delirio di disperazione. Soltanto lei poteva disperarsi a quel modo, lei che era così poco ragionevole, così istintiva, lei che era perdutamente innamorata, anche se non voleva rendersene conto. Niente lacrime, solo urla inarticolate, gesti rabbiosi, convulsi. Aveva mandato via le cameriere proprio perché non voleva farsi vedere a piangere. Pensava che appena rimasta sola sarebbe scoppiata in singhiozzi. Ma adesso non riusciva a sfogarsi piangendo. Era troppo dominata dall'orgoglio, dall'indignazione, dall'idea di essere in condizione di inferiorità di fronte al principe. «Come mi hanno umiliata!» continuava a gridare. «Mi insultano, minacciano addirittura di uccidere Fabrizio e io non dovrei potermi vendicare. Ah no, un momento, signor principe. Adesso mi stai facendo morire, va bene, è in tuo potere, ma poi verrà la mia volta, ti ammazzerò. Ma a che cosa ti servirà, povero Fabrizio? Che differenza dall'altro giorno, quando volevo partire, e pensare che ero triste, che pazza sono stata. Mi sembrava di essere sul punto di lasciare tante abitudini piacevoli, e in realtà, senza che io lo sapessi, stava per capitare qualcosa che avrebbe deciso di tutta la mia vita. Ci saremmo salvati se Mosca, con quel suo odioso modo di fare da cortigiano meschino, non avesse tralasciato di scrivere quel punto dove si parlava di procedimento ingiusto in quel biglietto decisivo. Ero riuscita a ottenerlo puntando sulla vanità del principe, quel biglietto. D'accordo, non è che sia stata abile. Ho semplicemente avuto la fortuna di provocare il suo amor proprio per la sua amatissima Parma. Dicevo che sarei partita, ero libera, e adesso sono come una schiava, inchiodata in questa fogna schifosa. E Fabrizio è chiuso nella cittadella, in quella prigione che è stata l'anticamera della morte per tanta brava gente. Ora piangeva, poteva piangere finalmente. Dopo un'ora concessa alla debolezza umana, si accorse che poteva incominciare a vederci un po' più chiaro, e ne fu sollevata. Qui si tratta di agire, e se mi provocano, se il principe mi parla di Fabrizio, non sono sicura di riuscire a non perdere la calma. Bisogna fare un piano, adesso, subito. Se mi incolpano di delitti contro lo Stato, Rassi mette subito le mani su tutto quanto c'è in casa. Carte non ne troverà, perché il primo del mese, come al solito, Mosca e io abbiamo bruciato tutte le carte che avrebbero potuto comprometterci con la polizia. E il bello è che il ministro della polizia è lui. Ma ci sono quei tre diamanti. Li darò a Fulgenzio, quello che mi faceva da barcaiolo a Griante, che li metta al sicuro a Genova. Se Fabrizio riesce a scappare, ah signore, fosse vero, e si fece il segno della croce, quel gran vigliacco del marchese del Dongo lo considererebbe un peccato dar da mangiare a un uomo che è perseguitato da un legittimo sovrano. E almeno con quei diamanti Fabrizio avrà di che vivere. Poi devo rompere con Mosca. Dopo quello che è successo, non potrei tollerare di star sola con lui. Poveraccio, non che sia cattivo, anzi, è solo un debole. C'è della volgarità in lui, non è alla nostra altezza. Ah, Fabrizio, ci fossi qui tu a consigliarmi. Con la sua meticolosa prudenza, Mosca finirebbe per mettermi i bastoni fra le ruote. E poi non voglio che si rovini per colpa mia. Sì, devo rompere con Mosca, e in modo che tutti se ne accorgano. Non voglio che si rovini per colpa mia, sarebbe un delitto. Quel poveraccio mi ha amata con tanto candore. La stupida sono stata io che ho creduto che un perfetto cortigiano potesse avere ancora un po' di cuore. È probabile che il principe troverà qualche pretesto per farmi arrestare, perché deve aver paura che io vada in giro a mettergli contro l'opinione pubblica. E allora Mosca, da uomo d'onore qual è, se ne andrà immediatamente, e tutti quegli sguatteri che ci sono a corte rimarranno sbalorditi e diranno che è una vera pazzia. Poi prenderò un altro amante, o almeno devo fare in modo che tutti lo pensino, e gli dirò: in fondo il principe fa bene a punire Fabrizio per quel suo colpo di testa, ma sono sicura che il nostro grazioso sovrano gli concederà l'amnistia il giorno del suo compleanno. Così sono 6 mesi guadagnati. Erano le 5 del mattino. Era sfinita. Suonò il campanello. Le cameriere entrando si misero a gridare. A vederla così, sul letto, tutta vestita, con i suoi diamanti, pallidissima, gli occhi chiusi, sembrava un cadavere sul catafalco. Se non fosse stato perché aveva appena suonato, avrebbero pensato che fosse svenuta. Sulle guance insensibili le colava qualche lacrima. Fece segno alle cameriere di metterla a letto. La sera prima Mosca era venuto 2 volte alla casa della duchessa, ma non lo avevano lasciato entrare. Allora le aveva scritto un biglietto per dirle che doveva chiederle un consiglio. «Devo restare al mio posto dopo questo affronto?» E aggiungeva: «Il giovanotto è innocente, ma anche se fosse stato colpevole, tutti sapevano che io lo proteggo e non dovevano arrestarlo senza dirmi niente». La duchessa vide questo biglietto solo il giorno dopo. Mosca non era un uomo virtuoso. Si può anche dire che la virtù, come l'intendono i liberali, e cioè la dote di chi si preoccupa di pensare al bene dei molti, gli sembrava una gran sciocchezza. Lui era convinto di aver prima di tutto il dovere di pensare al bene del conte Mosca della Rovere, ma aveva il senso dell'onore, e adesso che parlava delle proprie dimissioni era assolutamente sincero. Non aveva mai mentito alla duchessa. Ma lei non fece nessun conto di quel biglietto. Aveva preso una decisione, anche se era una decisione molto penosa. Doveva fingere di aver dimenticato Fabrizio. Aveva fatto una tremenda fatica per arrivare a quel punto, e adesso tutto il resto le era completamente indifferente. Mosca si presentò una 10 volte a Palazzo San Severino. Fu ricevuto solo verso mezzogiorno. Restò spaventosamente scosso quando la vide. «È una donna di 40 anni», pensò, «e solo ieri era così giovane, così brillante. Mi dicevano tutti che quando parlava con Clelia Conti sembrava che avesse la sua età ed era lei la più desiderabile. Ma non era solo l'aspetto. Quando Gina riuscì a parlargli, Mosca sentì che anche la sua voce era strana, una voce fredda, distaccata, impassibile. Dopo un po' Gina lo guardò, ma i suoi occhi erano come spenti. Poi gli parlò con voce molto debole, ma staccando bene le parole, sforzandosi di dargli un tono gentile. «Separiamoci, mio caro, è necessario. In questi 5 anni non vi ho mai fatto un torto. Voi mi avete dato una vita divertente e mi annoiavo tanto, aggriante. Se non ci foste stato voi, sarei diventata vecchia qualche anno prima. Da parte mia ho sempre cercato di farvi felice. Ed è proprio perché vi voglio bene che vi propongo di separarci all'amiable, come dicono i francesi». Mosca non capiva. Gina fu obbligata a ripeterglielo, e lui diventò pallido, si inginocchiò vicino al letto e incominciò a parlare, prima stupefatto, poi disperato, e disse tutto quello che poteva dire in quella situazione un uomo intelligente, appassionatamente innamorato. Continuava a ripetere che avrebbe dato le dimissioni, che avrebbero potuto andare a vivere in qualche posto, il più lontano possibile da Parma. Gina si alzò a sedere sul letto e gli disse, quasi gridando: «Avete il coraggio di parlarmi di andare via, di lasciare qui Fabrizio?» Ma quando vide che a sentire quel nome Mosca si era turbato, lasciò passare un momento e poi, stringendogli leggermente la mano, gli disse: «No, amico mio, non vi dirò di avervi amato con quella passione impetuosa di cui a 30 anni io credo non sia più capace, e io i 30 anni li ho passati da un pezzo. Vi avranno detto che amavo Fabrizio, lo so, erano in molti a dirlo, in questo ambiente pieno di cattiveria». E mentre diceva quella parola, cattiveria, i suoi occhi parvero rianimarsi per la prima volta. Ma vi giuro davanti a Dio e sulla testa di Fabrizio che tra lui e me non è mai successa la più piccola cosa che non potesse succedere in presenza di altri. Non vi dirò neanche che gli voglio bene proprio come una sorella. Diciamo che gli voglio bene distinto, ecco. «E io?» ripeteva Mosca. Che sarà di me? Io, che vi amo più appassionatamente di quando vi ho conosciuta, quando vi vedevo alla Scala. Devo dirvi, amico mio, che parlar d'amore mi annoia. Mi sembra quasi indecente. Andiamo. E cercò inutilmente di sorridere. Coraggio. Comportatevi da uomo intelligente, abile, sempre pieno di risorse. Tutti pensano che voi siate il più grande politico che ci sia stato in Italia da anni e anni. Cercate di esserlo anche con me. Mosca si alzò in piedi. Per un po' camminò su e giù per la stanza senza parlare. Poi le disse: «No, non posso. Sono sconvolto dalla passione e voi venite a dirmi di cercare di essere ragionevole. Ma io non voglio essere ragionevole. Non parliamo di passione, vi prego», gli rispose Gina bruscamente. Era la prima volta dopo 2 ore di conversazione che la sua voce sembrava animarsi, e Mosca, lui che era così disperato, cercò di consolarla. «È finita», pensò Mosca. «È finita, non mi ama più. Non mi considera neanche uno di quegli uomini, come ce ne sono tanti, con un minimo di senso dell'onore». Poi, parlando in fretta, le disse: «Per prima cosa ho voluto avere dei particolari su come l'hanno arrestato, ma lo strano è che non sono riuscito a sapere niente di sicuro. Ho fatto interrogare i gendarmi di stanza nel paese vicino e loro hanno detto di aver visto arrivare il prigioniero da Castelnuovo e di aver avuto l'ordine di seguire il Calesse. Allora ho detto a Bruno, lo conoscete, di lui ci si può fidare a occhi chiusi, di rifare la strada passando da tutte le stazioni della gendarmeria per cercare di sapere dove e come abbia avuto luogo l'arresto di Fabrizio». A sentire il nome di Fabrizio, Gina incominciò a tremare. «Scusatemi, amico mio», disse quando riuscì a parlare, «ma mi interessano moltissimo questi particolari. Voglio sapere tutto, anche le cose più insignificanti». Gina era sollevata adesso. E dato che il discorso era caduto per un momento sulla sentenza, si trattava di stabilire se fosse già stata pronunciata quando il principe aveva firmato il biglietto indirizzato alla duchessa, lei, con strana precipitazione, colse l'occasione di dire a Mosca: «Non voglio stare a rimproverarvi di non aver scritto quella frase dove si parlava di procedimento ingiusto. Era il vostro istinto di cortigiano, vi aveva preso alla gola. Senza neanche accorgervene, avete anteposto l'interesse del vostro padrone a quello della vostra amica. È da molto, amico mio, che vi siete messo a mia completa disposizione in tutto, lo so, ma non potete cambiare la vostra natura. Avete un gran talento per fare il ministro, ma avete anche l'istinto del mestiere. Il fatto che non abbiate scritto quelle parole è stato la mia rovina, ma non c'è niente da rimproverarvi. Non è stata colpa della volontà, ma dell'istinto». Uscendo da Palazzo San Severina, Mosca era disperato. Gina era assolutamente decisa a lasciarlo, e lui non era mai stato così innamorato. Se continua a tornarci su cose del genere, è perché fuori d'Italia sono piuttosto improbabili. Arrivato a casa, incaricò addirittura 6 agenti carichi di lettere di percorrere la strada da Castelnuovo a Bologna. «E potrebbe succedere anche di peggio», pensava. «Il principe potrebbe cavarsi il gusto di farlo ammazzare da un momento all'altro, quel povero ragazzo, solo per vendicarsi del modo in cui lei l'ha trattato quella sera della lettera. A me sembrava che Gina stesse passando tutti i limiti, e allora ho cercato di rimediare. Ecco perché sono stato così incredibilmente stupido da non scrivere quella frase, e era l'unica cosa che avrebbe potuto impegnare il principe. D'altra parte, non c'è niente che possa costituire un impegno per gente di quella razza. Certo che è stato il più grosso sbaglio della mia vita. Mi sono giocato tutto. Adesso bisogna correre ai ripari, darsi da fare. Io sono pronto a sacrificare anche un po' della mia dignità, ma a un certo punto, se non ci riesco, io lo pianto, quello lì. Voglio proprio vedere come farà senza di me, con tutti i suoi sogni di alta politica, con l'idea che si è messo in testa di diventare re costituzionale della Lombardia. Fabio Conti non è che un imbecille, e l'altro, Rassi, è capace solo di far impiccare con tutti i crismi della legalità quelli che danno fastidio al governo». Thank you. Come abbiamo già detto, il giorno del suo arresto Fabrizio fu portato prima al palazzo del governatore. È una graziosa palazzina costruita nel Settecento su disegno del Vanvitelli, sulla piattaforma del torrione a 180 piedi di altezza, e sembra la gobba sul dorso di un dromedario. Dalle finestre di questa palazzina Fabrizio poteva vedere la campagna e in lontananza le Alpi, e seguiva il corso del Parma, il piccolo torrente che a 4 leghe dalla città curva verso destra e va a buttarsi nel Po. Di là dal Po, una lunga fila di macchie bianche immense in mezzo al verde dei campi, si potevano distinguere tutte le cime della smisurata muraglia di montagne su a nord. Quell'ampia vista è chiusa verso sud dalla Torre Farnese, dove in quel momento stavano preparando in tutta fretta una stanza per Fabrizio. La Torre Farnese, dove portarono Fabrizio 3/4 d'ora dopo, è alta una 50ina di piedi sulla terrazza della Torre Grande e porta in cima una infinità di parafulmini. Il pianterreno, lungo almeno una 40ina di passi e largo in proporzione, è stipato di colonne molto tozze, perché quell'ambiente immenso è alto una 15ina di piedi al massimo. Qui sta il corpo di guardia e al centro, avvolta attorno a una delle colonne, c'è una scala a chiocciola di ferro lavorato, larga solo 2 piedi. Salendo questa scaletta, che tremava tutta sotto i passi dei carcerieri che lo scortavano, Fabrizio arrivò al primo piano, composto di stanze molto ampie e alte più di 20 piedi. Poi condussero Fabrizio in fondo all'appartamento e gli fecero vedere la cappella, è di una magnificenza incredibile. I muri e le volte sono interamente rivestiti di marmo nero e nere colonne eleganti sono disposte in fila lungo i muri neri, un po' scostate, e dai muri sporgono bianche teste di morto in marmo, colossali, su 2 ossa incrociate. Un'altra scala a chiocciola di ferro lavorato, anch'essa avvolta attorno a una colonna, porta al secondo piano della prigione, e è qui, nelle stanze di questo secondo piano, alte una 15ina di piedi, che da un anno a questa parte il generale Fabio Conti stava dando prova del suo talento. Per prima cosa aveva fatto sistemare solide inferriate alle finestre di quelle stanze, che un tempo erano occupate dalla servitù e che sono a più di 30 piedi dal pavimento di pietra della terrazza della Torre Grande. Tutte le stanze, ognuna delle quali ha 2 finestre, danno su un corridoio strettissimo, oscuro, e percorrendo quel corridoio Fabrizio passò una dopo l'altra 3 cancellate fatte di grosse sbarre alte fino al soffitto. Un cospiratore chiuso in una di quelle stanze non avrebbe potuto dire di essere trattato in modo inumano, è vero, ma intanto non poteva comunicare con anima viva né fare il più piccolo movimento senza essere sentito. Infatti il generale, e questa era la sua grande trovata che serviva a qualificarlo per il posto di ministro della polizia, aveva fatto sistemare sul pavimento di ogni stanza un bancone di quercia alto 3 piedi. Su questo bancone aveva fatto costruire una specie di capannotto di legno rumorosissimo che arrivava fino alla parete soltanto sul lato delle finestre. Lungo gli altri 3 lati correva un piccolo corridoio largo 4 piedi, delimitato da una parte dagli enormi blocchi di pietra del muro originario della prigione e dall'altra dalle pareti di legno del capannotto. Queste ultime, fatte di assi di quercia, di noce e di abete, una contro l'altra, erano tenute solidamente insieme da un'infinità di chiodi e di bulloni. Fu in una di quelle stanze, capolavoro del generale Fabio Conti, che Fabrizio fu fatto entrare. Era stata battezzata con il bel nome di stanza dell'obbedienza passiva. Fabrizio corse alla finestra. C'era una splendida vista, chiusa solo per un breve spazio a nord-ovest dal loggiato della palazzina a 2 piani del governatore. Al pianterreno c'erano gli uffici dello Stato Maggiore, ma lo sguardo di Fabrizio fu attirato da una finestra di una stanza al secondo piano, dove c'erano certe gabbiette piene di uccelli di ogni genere. E mentre i carcerieri si davano da fare per la stanza, Fabrizio rimase lì tutto contento a sentir cantare quegli uccelli, a vederli salutare l'ultima luce del crepuscolo. Quella finestra era lontana circa 25 piedi da una delle sue, era un po' più bassa, in modo che Fabrizio poteva guardare proprio sopra le gabbie. C'era la luna quella sera, e ora stava alzandosi maestosa all'orizzonte, verso destra, sopra le Alpi, dalla parte di Treviso. Erano solo le 8:30, e dall'altra parte, a occidente, sul rosso arancio luminoso del crepuscolo, si stagliava netto il profilo del Monviso e delle altre cime delle Alpi che da Nizza salgono verso il Moncenisio e Torino. Fabrizio non pensava alle sue disgrazie. Era turbato, commosso da quello spettacolo stupendo. È qui che vive Clelia, in questo mondo di sogno. Deve piacerle, seria e pensosa com'è. Sembra di essere su una montagna a 100 leghe da Parma, lontani da tutto. Fu solo dopo aver passato più di 2 ore alla finestra, ammirando quello spettacolo che lo colpiva tanto e soffermandosi anche molte volte a guardare la palazzina del governatore, che Fabrizio all'improvviso disse a voce alta: «Ma è una prigione questa, e io che ne avevo tanta paura!» Invece di continuare a preoccuparsi del lato spiacevole e irritante della situazione, il nostro eroe era tutto preso dalle delizie della prigione. Pietro Biondi ha letto La Certosa di Parma di Stendhal. Riduzione di Giovanni Piccioni. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.